24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8 e 19 minuti inizia la terza parte di 24 Mattino. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, è venerdì 12 giugno. Di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria, eccoci. Ciao Simone, buongiorno a tutti voi. Mi colpisce questa mattina una singolarità, Simone. Sia la prima pagina del Guardian che quella delle Figaro puntano tutte e due alle tensioni razziali, come se appunto quanto sta accadendo e è accaduto negli Stati Uniti potesse avere una coda, e ce la sta avendo in effetti, una coda pericolosa anche in questi due paesi, ma da un'angolazione diversa, perché per il Guardian la tensione cresce proprio per i movimenti che, e ne parleremo più tardi anche noi, si stanno indirizzando all'abbattimento vero e proprio delle statue e simbolicamente di alcuni protagonisti del passato. A Bristol, per esempio, ed è la cosa di cui parla il Guardian in prima pagina, hanno abbattuto la statua di un noto schiavista, Edward Colston, che regalò alla città grande ricchezza, perché Bristol ha costruito nei secoli passati la sua ricchezza sullo schiavismo, sul traffico degli schiavi, oltre che sul commercio di alcol e porto che arrivava dagli altri paesi. E quindi l'abbattimento della statua di Colston è stato proprio simbolico. Il Guardian mette in luce questo aspetto di tensione, e invece Le Figaro la prende da un'altra parte, la prende dalla parte delle tensioni che ci sono, sì, ma nella polizia, che si sente praticamente disarmata, e ce l'ha col ministro Castaner, perché non si sente abbastanza sostenuta in queste giornate in cui anche in Francia, soprattutto nelle banlieue, la tensione razziale sta crescendo. Mi sembrano due situazioni, quella britannica e quella francese, da tenere d'occhio, proprio in relazione anche a quanto sta accadendo con l'abbattimento dei simboli considerati razzisti. Come sappiamo, tra questi simboli c'è anche Via col vento, che HBO ha deciso di cancellare momentaneamente dalla programmazione e poi rimettere con delle spiegazioni, con una contestualizzazione storica. Ci torneremo più avanti, ne parleremo con Enrico Vanzina. Sentate, volete dire la vostra anche su questo? C'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, i vostri SMS, i vostri WhatsApp, e l'800 24 00 24 per intervenire in diretta. Apriamo però occupandoci di quello che succederà domani, l'apertura degli Stati Generali, questa decina di giorni di incontri con i quali il governo vuole mettere a punto un programma per il rilancio. Ne parla diffusamente il presidente del Consiglio Conte in una serie di colloqui con alcuni quotidiani, tra cui anche il Sole 24 Ore. Parla con Emilia Patta, pagina 14, parla di Industria 4.0 Plus per il digitale. Sul MES valuteremo con il Parlamento, ma insomma si apre quella che alcuni considerano una passerella. Chissà come la vede Giovanni Tria, docente di economia politica a Tor Vergata ed ex ministro dell'economia, che è in linea con noi. Professor Tria, buongiorno, eccoci. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Professore, buongiorno. Buongiorno. Intanto le chiedo, dal suo punto di vista, Stati Generali che cominciano con l'interlocuzione con i massimi livelli europei, Ursula von der Leyen e il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli saranno ospiti del Presidente Conte, sono un segnale di attenzione all'Italia o un supporto alla politica che Conte pensa di fare? Lei c'era fino a pochi mesi fa, quindi sa che tipo di considerazione il Premier di che tipo di considerazione il Premier gode in Europa. Come stanno le cose? Ma adesso non è chiaro che non posso dire rispondo direttamente alla domanda. Si apre, io come professore non sono mai contrario ai convegni, certo sono perplesso al fatto che si apra un convegno. La partecipazione, anche come è stato annunciato, certo crea un po' perplessità il fatto che questo convegno si apra essenzialmente con la troica. Ora è chiaro che diciamo, vogliamo interpretarla come una specie di sottile messaggio comunicativo, ma non credo da parte né del Fondo Monetario né della von der Leyen né della, della Lagarde, e nei convegni a volte per avere prestigio si chiamano persone importanti. Certo, dal punto di vista comunicativo questo appello alla Troica io l'avrei forse, diciamo, evitato, anche perché un evento che viene presentato, questa è la perplessità, per raccogliere opinioni e idee, ma sa, un governo, ogni ministro, ogni Presidente del Consiglio ha delle interlocuzioni quotidiane con questi personaggi, come le hanno con i grandi imprenditori, con le parti sociali, ci fanno continuamente, quindi non è che in un evento del genere lì si sentono le opinioni e si raccolgono le idee, almeno io immagino che le sia stato fatto finora, altrimenti mi preoccuperei. E anche con appunto con le, diciamo, con la cosiddetta troica, sì. Perché in fondo loro i compiti a casa l'Europa l'ha fatti e adesso si tratta che l'Italia deve fare i propri compiti a casa. Ora aprire il tutto con la troica, un po' strano. Professor Tria, l'osservazione che viene fatta spesso su questi stati generali è la seguente. Sì. Noi sappiamo benissimo che cosa deve fare l'Italia. Deve snellire la burocrazia, riformare la giustizia civile e penale per accelerarla, sveltire la pubblica amministrazione. Son cose ridurre che ci diciamo, l'evasione fiscale. Sono cose che ci diciamo da anni, professore. Quindi qualcuno dice, vabbè, ma a che serve vedersi in 10 giorni? Sì, ma l'elenco delle cose da fare, le cose che si possono fare o che hanno avuto, che non si sono fatte in parte per in qualche modo incapacità, ma in parte per opposizioni politiche, diciamolo, l'elenco è lungo, ma questo non significa che in questo modo si possa fare un piano. Sento esempio dire sospensione del codice degli appalti e seguire la direttiva europea, ma guardi, questa è una proposta che nel marzo 2019 fu posta dal Ministro dell'Economia e Finanze sul tavolo del governo, fu respinta. Adesso hanno cambiato idea, non lo so, sarei felice di questo. Quindi la fece lei questa proposta, professore? Sì, la facevo, fu respinta. Adesso le forze politiche ci sono ancora al governo, ma ovviamente gli eventi fanno cambiare le idee, come sempre accade. Questo è abbastanza, diciamo, è abbastanza normale. Però appunto l'elenco delle cose che andrebbero cambiate in un senso o nell'altro non significa che costituiscono un piano, anche se si scelgono alcune. Un piano richiede degli obiettivi precisi e degli strumenti per raggiungerli. Quali sono gli obiettivi attuali? Uno, lo sappiamo, uno è frenare la caduta del PIL e dell'occupazione, cioè la fase di emergenza che la Germania ha fatto, che l'Europa ha dato il permesso all'Italia di fare, cioè di indebitarsi e di spendere oltre i limiti normali delle regole fiscali, e questo era il primo obiettivo, e siamo ancora all'operatività di questo, di mettere in opera gli strumenti per questo obiettivo. Il secondo è aumentare il tasso di crescita del periodo 21-22 e seguenti per avere una sostenibilità del debito, oltre che per avere eventualmente un maggior benessere ai cittadini italiani. Allora, questo richiede scegliere degli programmi e progetti con una stima anche approssimativa, se vogliamo, dell'impatto su questi obiettivi. Noi non abbiamo ancora una stima dell'impatto sul PIL dei 55 miliardi che dobbiamo adesso spendere. A secondo come si spendono, sia un impatto di un tipo o di un altro. In gergo i moltiplicatori sono diversi. Questi sono i piani, e i piani operativi ovviamente non si fanno in un convegno. Io credo che una delle prime cose che andrebbero fatte è riportare nelle sedi istituzionali il disegno dei piani. Qual è la sede istituzionale? Io farei come prima cosa riportare la programmazione economica al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Non è stata colpa di questo governo nel precedente, è stato spostato il Dipartimento di Programmazione Economica, che era il vecchio Ministero della Programmazione, alla Presidenza del Consiglio. La Presidenza del Consiglio, per tutti i governi, cabine di regia, nuclei, valutazioni, non hanno mai funzionato. Bisogna riportare al Ministero dell'Economia la competenza, il compito della programmazione, unendo entrate, fisco, tesoro, il controllo della spesa, ragioneria. altrimenti noi abbiamo, e lo abbiamo visto in questi ultimi tempi, una specie di struttura amministrativa, anzi non amministrativa, di governo parallela, task force, tutto fuori. Ecco, ma questo ministro, posso chiederle, lei c'è stato lì? No, non più ministro, Maria, sì. per carità. Ex ministro, però si rimane ministro in vita. Ah, sì. Professore, lei avrà visto, no, questa mattina è stato varato il piano famiglie, io ne leggevo i dettagli e vedevo che alcune cose entreranno in vigore tra un anno, alcune tra due anni. Da qui all'entrata in vigore, le famiglie che aspettano questi provvedimenti rimarranno con i problemi che sappiamo. Ma questo vale per molti altri provvedimenti. Uno degli ostacoli è appunto la realizzazione, l'implementazione di quello che a un certo punto poi viene varato dal Consiglio dei Ministri. Giorni fa c'è stata una breve polemica perché era sembrato che nell'entourage di Conte ci si lamentasse di un apparato burocratico che non agevola la politica. Sembrava di essere tornati a qualche mese fa, quando c'era lei al Ministero, e anche lì c'erano le accuse rivolte a lei e al, diciamo, al nucleo di alti funzionari dello Stato, alti civil servant del Ministero dell'Economia, sempre sospettati di mettere i bastoni tra le ruote alla politica che vuole fare. Qual è il problema? Ma non è così, perché i bastoni tra le ruote a quale politica? Allora uno deve specificare qual è, diciamo, il provvedimento che viene ostacolato. Il problema è che la cosiddetta politica, che non è la politica in generale, perché a capo dei ministeri, delle strutture ci sono i ministri, che sono i politici, sono loro i responsabili dell'amministrazione e devono recuperare direttamente questo ruolo, impedendo che queste le attività dei ministeri istituzionali venga, diciamo, spostata al di fuori, come spesso sta accadendo. Se si decide una norma che richiede un processo di attuazione per cui non ci sono gli strumenti e non si controlla qual è la procedura, se ci sono gli uffici, le persone, le competenze e non si calcano i tempi, è chiaro che questa norma non ha seguito. Ora, se io decido che improvvisamente l'INPS deve rispondere a 4 milioni di domande, mi devo porre il problema se l'INPS è in grado di farlo prima di emettere una norma. È sempre così. Dico, questo è quello che che accade. Se negli uffici legislativi si tirano fuori norme di cui la cui attuazione richiede strumenti e tempi che non si valutano nell'impatto, è chiaro che queste norme non vengono attuate, e non parlo solo dei decreti attuativi, che sono altre norme, sì, ma proprio tecnicamente la catena di produzione per raggiungere l'obiettivo che io mi pongo. Chi e come deve mettere a terra questi provvedimenti, insomma? Chi e come, e se ci sono gli strumenti, se ci sono, altrimenti si prende un provvedimento diverso. Non posso mettere in piedi 10 procedure quando io non ho controllato i tempi e se ci sono gli uffici in grado di farlo nei tempi necessari, perché altrimenti devo cambiare strada. E lì la questione non sono le burocrazie, perché le burocrazie sono bloccate da norme e da regolamenti che sono decisi dalla politica e dal Parlamento. Questo è un alibi che si pone di uno stato confusionale. Questo è abbastanza, diciamo, è evidente. Ora, ritornando alle cose drammatiche di oggi, quello che voi mi avete chiesto, no? Provvedimenti che avranno attuazione dopo un anno. Certo, bisogna mettere in piedi anche con una visione di medio-lungo periodo alcune azioni, ma oggi si stanno spendendo 55 miliardi, anzi il complesso sono spesi 75 miliardi, bisogna definire ancora precisamente come arrivano questi soldi e attraverso quali canali, e a secondo come vengono allocati, come si dice, o dove sono posti, l'effetto sul immediato, sul PIL è diverso. Quanto andrà al sostegno dei consumi, quanto a investimenti, quali sono gli strumenti? Allora, e dobbiamo avere una valutazione ex ante di impatto, almeno un'idea. E quando si pone il piano di rilancio, e fare un piano, bisogna vedere qual è l'obiettivo e di tutto l'elenco che, di possibili cose da fare, bisogna vedere quelle che hanno immediatamente impatto e soprattutto collegarsi ai piani europei, perché la svolta europea non è solo di dare delle risorse all'Italia. C'è una svolta europea che si vede anche in Germania. Che la Germania ponga risorse enormi nel rilancio della propria economia è un grande vantaggio per l'Italia. E nel rilancio dei consumi interni, Tria, che è una cosa che loro non hanno mai fatto. Certo, la Germania sta facendo tutto quello che noi per anni abbiamo richiesto, non solo noi, ma lo stessa Banca Centrale Europea, lo diceva anche Draghi, cioè di usare il loro spazio fiscale per fare da traino per l'espansione economica dell'Europa. Lo sta facendo. Si sono finalmente decisi, professore. Come? Si sono finalmente decisi, ma secondo lei questi 37 miliardi del MES che vanno, dovrebbero andare alla sanità, dobbiamo prenderli o no? Ma questo, intanto io vorrei vedere quali sono i piani di investimento e di spesa che sono finanziabili dal MES. Devono essere spesi in 2 anni. Una volta visti i piani, qual è il loro ammontare effettivo, qual è il costo effettivo, a questo punto possiamo scegliere. Certamente io credo che non ci sia nessun pericolo a utilizzare questi fondi, ma non è quello il punto centrale. Io credo che che noi stiamo a discutere da mesi se utilizzare 10 o 20 miliardi del MES per la spesa, diciamo per la sanità in senso lato, è anche fuorviante, perché noi abbiamo già delle risorse che stiamo utilizzando e che l'Europa ci ha liberato, la parte non spesa dei fondi strutturali, e anche lì cosa viene fuori? Viene fuori la non operatività di alcuni ministeri e la non operatività degli organismi che sono spostati alla Presidenza del Consiglio anni fa, quindi non accuso questo governo, e che evidentemente non sono stati in grado di operare perché tutto venisse speso o di coordinare. E noi stiamo a discutere se prendiamo o no questi fondi. Non abbiamo i piani. Non abbiamo i piani, dobbiamo iniziare a spendere quelli che già abbiamo. La ringraziamo. Dobbiamo chiudere veramente. Grazie, professor Tria, Giovanni Tria, docente di economia politica a Tor Vergata, ex ministro dell'economia. Quello che dice Tria, Maria, ci scrive un ascoltatore, è semplice. Nelle aziende si chiama project management ed esiste, cioè è quello che bisogna fare: capire chi deve agire, come esattamente proiettarlo. E i tempi, certamente, è semplicissimo. Si fa con un Gantt, una pausa. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. Rinnegare il passato, buttare giù statue, bruciare libri, togliere film. Tutto questo è molto sbagliato. Uno il passato lo deve avere ben presente, deve saperlo valutare e deve imparare dagli errori e imparare invece dalle cose giuste che sono state fatte. Allora buttiamo giù il Colosseo, Fonte dei Massacri, l'Arco di Tito, buttiamo giù tutto ciò che ha creato il fascismo, tutte le bonifiche, non lo so, tutto quello che tutti i libri che hanno, ma siamo impazziti. Due opinioni, la prima un po' più moderata, quella seconda un po' più stecca dei nostri ascoltatori. Buongiorno Enrico Vanzina, sceneggiatore, produttore cinematografico, ultra noto, insomma. Buongiorno Vanzina, benvenuto. Giornalista. È giornalista anche, è vero, giornalista. È anche autore di divertenti libri e anche di libri pensosi, come l'ultimo che ha dedicato a suo fratello. Vanzina, citavo prima le pagine dei quotidiani inglesi, come faccio ogni mattina. Lì sta diventando un vero problema, cioè non è solo una questione partita dagli Stati Uniti e rimasta lì. in Europa sta diventando una questione molto molto importante. Per esempio in Gran Bretagna ci sono le battaglie tra chi vuole togliere la statua di Baden Powell, il fondatore dei Boy Scout, e chi invece la difende. Citavamo prima la decisione di togliere dal catalogo Via col vento perché è accusato di essere un film razzista, ed è tutto nato sull'onda delle proteste negli Stati Uniti e nel mondo per l'uccisione di George Floyd. Un uomo di cultura e di cinema come te, non fingiamo di non conoscerci, ti do del tuo anch'io, come vive questa onda che sta partendo nel mondo, e chissà come si ferma, se si ferma? Guarda, faccio una piccolissima premessa. Io sono nato in una famiglia liberale, oggi sono tutti liberali, invece una volta c'erano liberali, perché adesso sono tutti liberali. Alla base dell'educazione che ho avuto a casa c'è stato forse uno dei cardini fondamentali di essere antirazzista, ma totalmente antirazzista. Se osserviamo tutto quello che sta accadendo con il pensiero liberale, che secondo me è un buon viatico per addentrarci in questo difficile percorso, perché è un percorso che è cominciato già diversi anni fa, ci troviamo di fronte a qualcosa di molto particolare. Vedi, tu citavi Via col vento, adesso parliamo di cinema, visto che faccio il cinema. Allora bisognerebbe abolire tutti i western, bisognerebbe abolire molti dei western, bisognerebbe abolire il film sull'antica Roma, insomma ci sarebbe da levare cose pazzesche seguendo questo ragionamento. Questo ragionamento è sicuramente un segno che immediatamente ci porta a dire chi si schiera, anche per ragioni che lui considera giuste su questo versante, si schiera subito con quelli che bruciavano i libri, che fanno saltare le statue tipo i talebani, a dire ci mettiamo su una posizione indifendibile. Quello che è importante è cercare di capire perché questo sta accadendo. Allora, oggi c'è un bellissimo fondo anche sul Messaggero di Alessandro Campi che ne parla, ci sono dappertutto. Mi sembra che ci sono delle questioni importanti da dire. Una è un certo radicalismo di sinistra che non riesce, non è riuscito, probabilmente si trova impelagato con contraddizioni interne al dibattito interno, non riesce a modificare il presente e il futuro come vorrebbe, e qui se la prende con il passato. Questo accanimento sul passato spesso è il segno di una frustrazione di chi non riesce a incidere realmente sul presente. C'è una seconda cosa, abbiamo tutta una serie di giovani che c'è una lotta di generazioni che c'è sempre stata, ma in questo momento c'è una frustrazione enorme della parte più giovane del mondo, la quale sfortunatamente non è abituata a convivere con il passato perché non lo conosce, per cui valuta soltanto il presente e pensa che il passato non ha peso, pensa che il passato non esiste. Si confrontano continuamente solo col presente. Questo è molto grave, per cui anche questo per loro fare dei gesti, immaginare che il passato si può cancellare, è terrificante. Un'altra cosa è nessuno segue le lezioni gramsciane, per cui insomma il presente è quello che di essenziale c'era nel passato e che è arrivato a noi, e francamente è più facile non immaginare che la storia è controversa, è piena di contraddizioni, ma che da queste contraddizioni va avanti il mondo, è sempre stato così. Invece è molto più facile ripudiarlo, cambiarlo, ucciderlo. Allora, è vero, però. E poi c'è un ultimo, sì, un ultimo finisco, c'è un ultimo. Siamo in un momento di decadenza delle società occidentali che pensano di non avere più niente da esprimere, per cui si autoflagellano spessissimo pensando che dicendo abbiamo sbagliato prima. Abbiamo sbagliato, chiedono scusa quasi, perché non hanno più forza propulsiva per andare avanti, perché non interpretano più il passato per andare avanti. Questo è un po' il ragionamento. Sì, è vero dall'altra parte che, per rimanere nello specifico, su Via col vento il dibattito è aperto da molto tempo, perché effettivamente la rappresentazione degli afroamericani in quel film, e soprattutto in un film così importante, no? Considerato quasi il film per eccellenza, è una rappresentazione caricaturale. E quindi è chiaro che, insomma, noi la vediamo dal nostro punto di vista, no, per carità, però può darsi che dal punto di vista degli afroamericani quella cosa sia veramente offensiva, sia veramente, possa essere veramente una fonte di sofferenza per qualcosa che negli Stati Uniti evidentemente non è ancora chiuso. Sì, ma questo sicuramente è così, c'è una situazione razziale che è esplosiva e anche vergognosa in moltissimi aspetti della società americana. Però questo non significa che si cancella, non si può cancellare. Cancellare non serve assolutamente a nulla, serve soltanto a compattare frange altrettanto estremiste di segno opposto, che su questo gesto, che è un gesto comunque forte, l'idea di cancellare, si ricompattano e fanno nascere cose molto pericolose. Io la penso così, guardate. C'è un segnale che arriva proprio da Hollywood e che mi ha molto colpito. Nei mesi di lockdown ho visto una serie televisiva che si chiama Hollywood. E l'ho vista anch'io, ho visto le prime due puntate. Ma la cosa che colpisce è che questa serie televisiva cambia, muta la storia di alcuni personaggi di Hollywood, sì, per esempio, la fa diventare compatibile. La fa diventare compatibile con il politically correct di oggi. Per esempio, Rock Hudson non disse mai pubblicamente di essere gay. Invece, nella serie TV si presenta agli Oscar, alla serata degli Oscar, mano nella mano col suo compagno, che in questa serie TV è nero. È proprio il messaggio che arriva da Hollywood, e che, come sempre, Hollywood ha anticipato, è che proprio il mondo del cinema, delle serie TV, deve tener conto di queste tensioni razziali che evidentemente non sono in nessun modo più, non si possono più rimuovere, sono tensioni razziali che si impongono anche al mondo del cinema e che impongono cose tipo quella di cui stiamo parlando, cioè la cancellazione dal catalogo di Via col Vento. Sì, però vedi, Maria, che adesso io ho visto le prime due puntate, non l'ho seguita tutta la serie, affronta un tema importantissimo, è anche fatta molto bene, devo dire la verità, dal punto di vista proprio formale e di racconto. Tu puoi fare la stessa cosa in un altro modo, però, perché tu puoi oggi dare attraverso la storia un giudizio, vale a dire, se tu racconti che Rock Hudson non aveva il modo, non aveva il coraggio personale, ma non c'era l'humus in quel momento per poter fare l'outing come si può fare oggi, tu racconti questo che è molto più forte che travisare la storia. Travisare la storia non serve mai a nulla, no? È un'operazione altrettanto sbagliata come quella di cancellarla. Vuol dire, se tu fai un'interpretazione della storia che ha dimostrato che è andata in un certo modo, in un altro modo, sei di parte. Qua qualche ascoltatore ci scrive, no? Dice, ricorda qualche film italiano, allora mi viene in mente Vanzina, per esempio, e dice, per esempio, dovremmo cancellare molti film della Vermuller perché contengono una sorta, no, di pregiudizio antimeridionale. Mi viene in mente, lei per esempio ha sceneggiato il film poi girato da suo fratello, eccezionale veramente, nella quale c'è una rappresentazione del meridionale al nord, che è quella di Diego Abatantuono, che, no, che oggi verrebbe letta come piena di pregiudizi. Ma non è così, guardate, la commedia all'italiana in generale ha mostrato molto meglio dei film drammatici o film pensosi quella che è la realtà. La realtà bisogna sempre confrontarci, poi ci puoi ridere, ci puoi riflettere sopra, ma la forza della commedia italiana deve riportare sullo schermo quello che è esattamente in quel momento l'umore del paese, il costume del paese, senza dare giudizi. Poi sono gli spettatori che lo devono dare il giudizio, capito? Per cui guardate, se si entra in questo meandro della cancellazione diventa talmente ridicolo tutto che non usciamo più vivi, ma non esce più vivo soprattutto chi parte un'idea giusta, vale a dire cercare di riaffermare l'importanza della comunità afroamericana oppure della comunità indiana o indigena nel Sud America. È una lotta fondamentale per il progresso della democrazia, ma deve utilizzare la storia per spiegare gli errori fatti, non cancellandola. Certo. Non cancellandola, ma questo è talmente evidente, mi sembra un dibattito quasi veramente spostato su dei temi radicali che non hanno senso, secondo me. Marco dalla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per la telefonata. Prego. Rispetto al tema di oggi, niente, quello che pensavo è che di base non sono d'accordo su quanto sta avvenendo, però se la guardiamo da un altro punto di vista, il voler chiudere con un passato che non si vuole ricordare, perché credo che non sempre bisogna per forza ricordare tutto quanto, perché c'è un qualcosa che può aver fatto soffrire e fatto anche del male. E quindi già il tenerlo dentro di noi a volte costa fatica. In maniera banale uno può anche pensarla, non so, su delle relazioni affettive normalissime che possono iniziare e finire, no? E tante volte succede che uno strappa foto, vuole in qualche modo chiudere con quel passato. E quindi credo che a volte sia già difficile tenere dentro di noi un ricordo che è stato altamente negativo e quindi può sfociare in questa situazione che sta avvenendo. Poi di base, sì, non so se lo possiamo considerare un atto di violenza o qualcosa di simile, del quale io quindi non sono d'accordo. Io non credo che riuscirei mai a distruggere una statua, a buttarmi in un fiume, perché è un atto comunque forse anche di violenza. Però dall'altra parte, se c'è una storia che si vuole dimenticare, perché alcune cose a volte sarebbe bello poterle dimenticare. Lei capisce il sentimento che porta a questo, mi sembra di capire, sì. Marco. Sentiamo, Maria, se vuoi, sentiamo anche Gianfranco da Mantova molto rapidamente e poi andiamo a chiudere. Gianfranco, buongiorno, eccoci. Buongiorno a tutti quanti. La cosa che volevo dire è che dalla storia bisogna imparare per avere gli esempi positivi per guardare al futuro e migliorare, e gli esempi negativi devono restare da monito per non ripeterli. E le statue e i film, dice lei, servono da monito, sì, mi sembra. Attenzione, infatti. Cultura, la cultura, conoscere, poter poi decidere le proprie azioni, per fare le cose, per non ripetere gli errori degli altri. Chiarissimo, Marco. Chiarissimo, Gianfranco, grazie. Si comincia col togliere dal catalogo Via col vento, e magari un giorno, su posizioni totalmente diverse, a qualcuno potrebbe venire in mente di togliere da un catalogo Schindler List. Che esatto, questo è il ragionamento fondamentale. Ha fatto conoscere la tragedia della Shoah a tanti ragazzi che non ne avevano ovviamente conoscenza, perché non, le generazioni nate negli anni 80, per esempio, guardando Schindler List con i loro insegnanti o con i loro genitori, hanno capito che cosa era successo col nazismo, e se non ci fosse stato quel film, tanti non avrebbero avuto questa percezione. Per cui togliere qualcosa è sempre un passo molto insidioso, no? Che ne pensa Vanzina? Sono perfettamente d'accordo con te. L'esempio di Schindler's List, ma rimanendo su Spielberg, c'è un film meraviglioso che lui ha fatto proprio sul mondo afroamericano che va visto e rivisto, e vedendo quell'ignobile modo di trattare questa minoranza in quel paese, lui fa venire fuori tutto, vuol dire scordarci il passato, anche vedere certi personaggi orrendi del passato, i nazisti, ricordo, certe volte vale più vederli, perché ti insegna, sì, sono talmente ridicoli, sono talmente ignobili, sono talmente che solo il vederli ti fa entrare subito nel mondo della critica, per cui scordarsi il passato è il più grande errore che si può fare. Lei dice che si può fare. La ringraziamo, grazie Enrico Vanzina. Buona giornata, grazie per aver accettato il nostro invito. Buona giornata. Cara Maria, ci sentiamo lunedì 8:20 con gli altri ascoltatori, con gli ascoltatori alle 6:30 di lunedì. Ciao. E se vorrete domenica, c'è Nessuno è Perfetta. Vi aspetto su Radio 24 se vorrete. Giusto, ciao.